Con il permesso dell'autore Fabio Garuti, leggerò di seguito alcuni brani tratti dal suo interessante libro Le streghe di Benevento, la grande bugia, edito da Anguana Edizioni nel 2014. Perché parlare di streghe? Che origini avevano? Perché furono così odiate? Possibile che operassero solo malefici? Analizzeremo il tutto tramite il fenomeno di Benevento, un'anomalia di tipo storico, dal momento che furono soprattutto il centro-nord Europa, oltre al nord Italia, ad essere interessati da questo preteso fenomeno. E di conseguenza la città campana costituì non solo una specie di enclave della stregoneria, ma a voler essere fin d'ora più precisi e corretti, del druidismo femminile del culto di Iside nel sud Italia, se così vogliamo dire. Ma approfondiremo l'argomento. Erano donne normalissime, libere, depositarie di conoscenze antiche e superstiti di un antico, anzi antichissimo sapere, in grado, oltretutto, di catalizzare e far coesistere tante figure e tanti culti basati sul mondo femminile. Giunsero ad una tale fama, soprattutto nel campo della medicina, da risultare invise ai poteri sia centrale che ecclesiastico dell'epoca. Non ci misero molto tali due realtà ad allearsi in una sorta di patto scellerato per spazzare via ciò che poteva infastidire il loro potere assoluto, un vero e proprio duopolio. Ma non era ancora sufficiente, ci voleva la delegittimazione, il pubblico ludibrio unito allo schifo generalizzato, l'orrore e il terrore da parte del popolo. Niente di meglio allora che istituzionalizzare il processo farsa, con confessioni estorte, con torture inenarrabili al fine di ottenere confessioni raccapriccianti, provvedendo nel contempo a creare superstizioni, terminologie, paure, odio, che in diversi casi sono ancora oggi dure a morire. Ma alla base di tutto si vuole soprattutto colpire l'ormai chiaro predominio in Europa di un modo femminile di vedere la vita. Fu operazione soprattutto e sostanzialmente misogina contro la donna, condotta con lucidità estrema. Prenderemo spesso in considerazione, dicevamo, il territorio del Sannio in Campania, dato che da questo luogo, ancora oggi famoso in tal senso, è possibile ricavare per tutta una serie di combinazioni storiche, tanto casuali quanto incredibili, proprio il collegamento nettissimo tra druidismo femminile e repressione della supposta stregoneria. Il druidismo ebbe sicuramente un ruolo importante sia nell'Europa centro-settentrionale che nell'Italia settentrionale pre-romana, e il fatto che abbiano fatto propri simboli molto vetusti, peraltro identificati in altre parti del mondo molto distanti dall'Europa, dimostra che ebbero agganci con culture risalenti a svariati millenni fa. La funzione delle donne all'interno del druidismo era certamente di rilievo. E per fortuna abbiamo testimonianze precise in tal senso provenienti dalla latinità. Ma qual è la svolta storica che ci permette di affermare che il druidismo femminile sopravvisse certamente molto meglio e molto più a lungo di quello maschile anche nel centro-sud Italia? La deportazione di quasi 45.000 persone di origine celtica dall'odierna Liguria all'attuale Sannio Beneventano, avvenuta ad opera dei Romani nel 180 circa a.C. per motivi di sicurezza militare afferenti agli spostamenti da e per l'odierno territorio francese. L'equivalente di un'attuale cittadina di media grandezza venne spostata con un'impresa incredibile per quei tempi, con tanto di donne, bambini, usi e consuetudini. Data l'origine celtica della popolazione in questione, il discorso diventa immediatamente più chiaro e comprensibile. Se il druidismo maschile era già in piena decadenza, volutamente annientato dai romani, che ne intravedevano un pericolo non solo per l'ordine costituito, ma soprattutto per eventuali rivolte e tumulti interni, quello femminile riuscì a godere di un'indipendenza quasi totale nel generale disinteresse dei romani, poco avvezzi a considerare le donne un pericolo militare o politico o una qualche possibile fonte di destabilizzazione sociale. In Europa crebbe così tale realtà druidica femminile, divenuta una vera e propria enclave nel territorio beneventano. Proprio quest'ultima, in seguito, per quei casi che solo la storia sa creare ad arte, agì indisturbata per molti secoli, grazie all'indipendenza garantita in tal senso dai Longobardi, allorché Benevento fece parte integrante della Langobardia minore. Non dimenticheremo di certo il fortissimo culto di Iside, proveniente dall'Egitto, ufficialmente riconosciuto proprio in questo luogo dall'imperatore Domiziano nel primo secolo d.C. e incoraggiato fortemente dai Longobardi per molti secoli a venire. Una fusione quasi perfetta con i concetti espressi dal druidismo, come vedremo. Le druide agirono quindi nell'Europa centrale, nell'Italia settentrionale e nel Beneventano, oltre che in altre parti d'Europa. Noi affronteremo il destino di queste donne, soprattutto in quest'ultima località simbolo. Analizzeremo le cause di un odio e di un'invidia tanto spietatamente viscerali nei confronti dell'universo femminile. Il fattore religioso non c'entrò per nulla, si trattò di una scusa bella e buona ideata per reprimere chi dava fastidio sia al potere centrale, o meglio temporale, che a quello spirituale. C'è la netta sensazione che la repressione del druidismo femminile e della femminilità abbia contato centinaia di migliaia di vittime in tutta l'Europa. Il periodo di repressione durò secoli e secoli e qualche studioso ha parlato di ben oltre 5 milioni di persone. Altre stime considerano possibile parlare addirittura di circa 10 milioni di persone. Cifre spaventose, come spaventoso può essere solo un genocidio, talmente radicale che in alcuni paesi o villaggi si verificarono vere e proprie rivolte, non era rimasta in vita neanche una donna. Il territorio del Sannio, oggi sostanzialmente in provincia di Benevento, ma in realtà molto più vasto in origine, tanto da lambire anche l'Italia centrale, ricorda e richiama molto le zone boschive del nord Italia e dell'Europa centrale. Il dato è importante in quanto un simile luogo risultò già molto anticamente assai adatto alle popolazioni che proprio dall'Europa centrale si spostavano verso altre regioni più ospitali. Logico che in una terra simile, boschiva e rigogliosa, ma anche vicinissima al mare e alla pianura, ci si sia fermati già in epoca antichissima. Quando parlo di Europa centrale, mi riferisco soprattutto ai Celti, con al proprio seguito druidi e druide. La città di Benevento fu da subito fondamentale crocevia dei viaggi con l'Oriente. La via Traiana collegava la città campana con Brindisi e quindi con l'Oriente, un dato importante per quanto attiene a passaggi di notizie, aspetti culturali, culti. Ricostruita tra il 108 e il 110 d.C. ad opera dell'imperatore Traiano, questa importante arteria seguiva il tracciato di una strada addirittura già esistente in età repubblicana e quindi assai antica. Il Sannio Beneventano era popolato già ben prima della fondazione di Roma. Ci sono infatti precise notizie in merito ad insediamenti antichissimi da parte di tribù di origine celtica, identificabili con la fiera e bellicosa tribù dei Pentri. Questa antica etnia identifica il nucleo delle genti che abitavano la regione e la loro origine mitteleuropea avrebbe giocato, come vedremo, un ruolo decisivo nella caratterizzazione di questi luoghi. Il fatto eclatante e probabilmente decisivo per la definitiva caratterizzazione celtico-druidica di questi luoghi, oltre ai citati pentri, l'altra prova è costituita dalla deportazione in questi luoghi di quasi 50.000 liguri, e quindi sempre di origine celtica, con donne e bambini al seguito. Perché i romani li deportarono e non li trucidarono? Probabilmente per non usare eccessiva e inutile crudeltà e soprattutto per creare un'intelligente zona cuscinetto con la Magna Grecia e alimentare in tal senso le fila dei Celti già presenti in zona proprio grazie ai pentri. Una quantità di persone da poter facilmente controllare, ma sufficienti ad ostacolare mire espansionistiche provenienti dal sud Italia. D'altronde, uno dei motti preferiti dai romani era proprio il divide et impera, ossia dividi e comanda. Avendo difficoltà a garantire il tranquillo passaggio in Liguria verso la Francia e viceversa, i romani sconfissero i Liguri Apuani e pensarono di spostarli da dove si trovavano senza trucidarli. Qualcosa di incredibile per i tempi. Siamo nel 181 avanti Cristo e la cosa lascia allibiti anche per la complessità dell'operazione. Chiaro il non volersi macchiare di una strage che avrebbe probabilmente suscitato reazioni notevoli. È chiaro anche il voler creare una barriera verso il sud Italia, liberando appunto nel contempo il passaggio verso la costa francese. Un esempio di vero e proprio realismo sociopolitico in cui i romani peraltro eccellevano. Ce ne riferisce, per nostra fortuna, proprio lo storico Tito Livio, con una dovizia di particolari assolutamente pregevole. Capitale di questo insediamento fu Bebio, nel Sannio, appunto, la zona archeologica attualmente denominata Macchia, sede peraltro di un ritrovamento molto importante, una tabula alimentaria rinvenuta nel 1831, in cui nell'anno 101 d.C. si attesta con estrema precisione la presenza di quella che è definibile una colonia ligure nel Sannio e che mantenne una propria identità per un certo periodo di tempo, fino ad essere assorbita, come logico che sia, nelle e dalle comunità circostanti. Che detti Liguri fossero di origine celtica è praticamente certo, sia per le caratteristiche sociali e militari, sia perché le donne, come testimoniato anche da storici del calibro di Diodoro Siculo, Strabone e Tacito, erano coraggiose, dedite al lavoro e soprattutto erano considerate uguali agli uomini, chiara derivazione mitteleuropea. Benevento è crocevia dei viaggi per Brindisi, lungo la via Traiana, che portano all'Oriente e ovviamente viceversa. Dall'Oriente arriva il poderoso culto di Iside, che diventerà talmente forte in questi luoghi da spingere l'imperatore Domiziano a glorificarlo ufficialmente nella città campana tra l'88 e l'89 d.C., elevando un vero e proprio santuario alla famosissima dea egizia proprio all'interno della città. Oggi non resta nulla di questo edificio, ma a memoria di ciò che fu il culto di Iside in questo luogo è ancora ben visibile un magnifico obelisco in granito rosso, collocato in piazza Papiniano, alto circa 3 metri e pesante 2 tonnellate e mezza. Le quattro facce sono coperte da geroglifici. Il tutto denota quanto forte fosse il culto per la dea nella Roma del primo secolo d.C. e quanto ancora lo sarebbe stato nei secoli a venire, proprio in questo luogo, grazie all'avvento dei Longobardi, anch'essi devoti alla dea. Druide e sacerdotesse di Iside trovarono qui un luogo ideale per sviluppare la sapienza femminile all'interno di un impero, quello romano, maschilista per eccellenza. Dopo la fine dell'impero romano d'Occidente nel 476 d.C., seguì un periodo confuso, ovvio che i culti femminili a Benevento e nel Sannio continuassero a radicarsi sempre di più e a resistere in tranquillità alla demonizzazione operata su di essi nei primi secoli dell'era cristiana, come vedremo. Un vero e proprio colpo di mano da parte della nascente gerarchia cristiana romana, molto preoccupata dell'incredibile portata di tali discipline e desiderosa di sbarazzarsene al più presto. Tra il 568 e il 774 d.C., Benevento fece parte in qualità di ducato della Langobardia Minor, parte del nuovo regno longobardo in Italia, diviso tra Minor al centro-sud e Maior al nord. Aspetto basilare della vicenda è costituito dal fatto che i Longobardi venerassero proprio la dea Iside, il cui culto era giunto fin nel cuore dell'Europa grazie ai frequenti contatti che collegavano appunto il Medio Oriente con le terre della Mitteleuropa. Ovvio che i culti femminili e l'indipendenza delle donne, così come le loro prerogative, non venissero minimamente poste in discussione, contribuendo a rendere il territorio di Benevento particolarissimo in tal senso, una specie di oasi, per così dire. Si ritiene da più parti che i Longobardi, originari della Scandinavia, fossero poi entrati in contatto con popolazioni germaniche adorando ora divinità femminili, ora divinità maschili e guerriere. La probabile svolta nella loro religiosità, che ci interessa da vicino, è il contatto con popolazioni quale quella dei Sarmati provenienti dall'Oriente che portarono i culti di quelle terre, tra cui certamente quello di Iside. Nella città sannita, la devozione ad Iside, già notevole grazie ai romani, diventa quindi ancora più sentita. La fusione tra culti femminili druidici e culto di Iside diventa così fortissima. I Longobardi non fanno altro che permettere loro di svilupparsi in piena serenità, facendo sì che il luogo diventi un vero e proprio punto di riferimento in tal senso. Con la caduta del regno longobardo, nel 774 d.C. ad opera dei Franchi di Carlo Magno, non ci furono sostanziali cambiamenti di tipo religioso e politico e soprattutto non tali da richiedere una decisiva sterzata in chiave antifemminista. Le cose cambiano rapidamente e tragicamente con l'avvento dei Normanni di Roberto il Guiscardo. Costui consegna il Principato di Benevento al papato, almeno ufficialmente, nel 1081, ma in realtà la dominazione pontificia inizia già nel 1077 con la nomina di due rettori che consegnano il dominio della città nelle mani e sotto lo strettissimo controllo diretto della Chiesa. In pratica il luogo da enclave dei culti femminili nel centro-sud Italia divenne una vera e propria enclave pontificia in pieno regno di Napoli, cosa che ci fa capire come importante fosse per i pontefici portare la regione a un vero e proprio cambiamento totale di rotta. Non solo un fatto simbolico, quindi, ma un'effettiva necessità per loro, tesa ad annullare una concorrenza molto pericolosa. Tanto per dare un'idea di tale cambiamento, proprio nel 1202, sotto il pontificato di Innocenzo III, e ormai poco tempo prima che iniziasse la persecuzione contro le streghe, si evince chiaramente dagli statuti cittadini come la realtà monocratica, volta a consolidare il potere pontificio, impedendo qualsiasi manovra in senso opposto, abbia chiaramente preso il sopravvento sulla libertà popolare. Da fiorente enclave dei culti femminili, Benevento diventerà il luogo simbolo della persecuzione contro le donne, appunto le streghe, e la loro assurda caccia, molto sapientemente orchestrata. Tornando ai Romani, sappiamo che considerarono il druidismo il vero cuore pulsante dell'organizzazione politica e sociale dei Celti. Ciò significa purtroppo che proprio in costoro l'establishment romano vide il nemico da battere, al fine di poter finalmente governare in relativa tranquillità. Lo sterminio dei druidi assunse quindi i contorni di un vero e proprio eccidio, da cui essi, proprio per la mancanza di documentazione scritta e quindi impossibilitati a creare nuovi quadri, non si riebbero più. Prima di proseguire, è opportuno focalizzare questo preciso momento storico, sostanziale fine del druidismo maschile e aumento esponenziale delle prerogative, già non secondarie all'origine, del druidismo femminile, visto sempre dai romani come una specie di folcloristica manifestazione di tipo tradizionalistico e non come la guida spirituale, sociale e politica di stampo maschile. Talmente sottovalutata fu la considerazione delle druide da far assumere al termine una connotazione addirittura di tipo vagamente dispregiativo. Nella percezione romana, esse non possedevano le medesime capacità e soprattutto il medesimo carisma nei propri nuclei sociali di riferimento dei druidi maschi, e ciò salvò loro la vita, a differenza degli uomini che furono eliminati, nel senso fisico del termine. Direttamente discendenti dalle druide erano le erbarie, che a parte le cure mediche in senso stretto, affrontavano i casi clinici senza preconcetti e superstizioni di sorta. Ovviamente praticamente nulla è rimasto di scritto su ciò che riuscivano a fare con la propria sapienza. La storiografia ufficiale ha provveduto con notevole solerzia e precisione ad eliminare ogni traccia del ruolo che esse di fatto e ormai di diritto detenevano all'interno della società medievale e post-medievale. Fortunatamente, e quasi per ironia della sorte, ci giungono in soccorso proprio i verbali di quei processi che hanno fatto da allucinante supporto giuridico al genocidio e da cui si evince spesso e ben chiaramente che queste donne erano appunto erbari, ossia conoscevano l'uso delle erbe medicinali, si occupavano dei parti e in genere di tutta la medicina di derivazione non solo druidica, ma anche romana. Il resto della medicina ufficiale era una sottospecie di superstizione o giù di lì. Ovvio che, a parte i casi di pestilenza o quant'altro, il ruolo di queste curatrici divenisse sempre più importante, anche e soprattutto nel quotidiano. Fateci caso, l'unico ruolo femminile che anche il maschilismo più becero e intransigente non sia stato in grado di debellare è stato proprio quello della levatrice. In concorrenza, per così dire, con le donne erbarie c'era soprattutto la medicina monastica, ossia quella sviluppata dai monaci all'interno dei monasteri, che Sicuramente dotata di meno tradizione alle spalle, questa medicina non vedeva assolutamente di buon occhio tale concorrenza che oltretutto negava ai monaci una sorta di potere di devozione assoluto, come facilmente si può intuire. Da qui a pensare che la sparizione fisica delle erboriste li abbia grandemente agevolati, il passo è brevissimo. Anche perché la sapienza monastica restava sempre solo circoscritta ai monasteri, appunto, mentre le erbarie erano diffuse e conosciutissime sul territorio. La differente perizia tra le due categorie di utilizzatori di erbe medicinali è dimostrata anche dal fatto che i monaci, avendo cominciato a creare dei piccoli orti all'interno dei monasteri, per coltivare le erbe, gli ortuli, appunto, pensarono bene di cominciare a descrivere i vari tipi di piante e le relative caratteristiche al fine di trasmetterne la conoscenza ad altri monasteri. Le erbarie, discendenti delle druide, non avevano bisogno di scrivere o di perpetuare le proprie conoscenze. La loro memoria, antichissima, veniva trasmessa oralmente da millenni. Con loro, purtroppo, tale scienza si è in gran parte persa. Altro che streghe. Volendo brevemente ricapitolare perché il territorio di Benevento sia diventato e sia ancora oggi considerato il luogo simbolo a livello europeo della cosiddetta stregoneria, va opportunamente ricordato che esso fu dapprima enclave del sapere e dei culti femminili, poi luogo simbolo da abbattere, da umiliare, da annichilire, da distruggere per spazzare via in un colpo solo sia il culto della femminilità che altri culti considerati eretici, ossia quelli legati alla natura e all'integrazione tra essa e gli esseri umani. Si volle così condannare per sempre all'oblio il mondo della libera femminilità, impedendo che non solo quest'ultima potesse essere considerata superiore alla maschilità, ma neanche lontanamente pari ad essa, un vero e proprio cambio di mentalità sociale. Non si spiega in nessun altro modo il perché la città sannita sia divenuta improvvisamente così importante da tale punto di vista. Dai verbali dei processi farsa, vera e propria cartina di tornasole di ciò che gli aguzzini volevano e riuscivano a far confessare con ogni terrificante mezzo, si evince che spesso le poverette dovevano riconoscere la veridicità di una curiosa filastrocca di cui vi daremo conto, che cita appunto la città sannita, facendo così assurgere quest'ultima a locus horribilis. E la filastrocca è: Unguento, unguento, portami al noce di Benevento, supra acqua et supra vento, et supra omne tormento. Per quanto incredibile possa sembrare, Benevento diventa, poco dopo l'anno 1000, un ulteriore enclave, solo che stavolta si tratta di un enclave sotto il diretto controllo del papato, e la cosa continuerà per tutto il regno di Napoli. Enclave druidica e druidica femminile prima, poi anche in aggiunta enclave del culto di Iside già dal primo secolo d.C. e poi, non certo per caso, enclave papale. Ecco che quindi, e vi esorto a considerare a fondo il tutto per la valenza che avrà nel proseguo della trattazione, Benevento assurge immediatamente, e non solo durante la caccia alle streghe successiva di qualche secolo, a luogo simbolo da combattere e da abbattere, ovviamente, dal punto di vista del potere ecclesiastico. Ecco perché si tenderà a demonizzare letteralmente, bollandolo come città delle streghe, questo luogo così suggestivo che verrà citato in moltissimi verbali di processi e diventerà talmente famoso da superare in notorietà ogni altro luogo del genere. Nulla di casuale, goliardico, ameno e caratteristico, assolutamente no, bensì la precisa volontà di annullare totalmente, condannando alla damnatio memoriae, un territorio che per complessi intrecci storici era diventato famoso per la femminilità. Si tenga presente che in circa 5 secoli, se non di più, è stata fatta letteralmente tabula rasa di tutta questa sapienza muliebre. Si sono descritti i Longobardi come dei semiselvaggi, si è totalmente taciuto il druidismo, si è completamente annullato il culto di Iside e soprattutto si è trovata la scusa della stregoneria. Ecco perché è stata scelta Benevento come luogo simbolo di questa vicenda. La ricerca nel merito della verità storica deve necessariamente partire da qui. Se Se analizziamo da un lato il culto di Iside, sviluppato sia in età romana che tramite i Longobardi, e la funzione del grande albero sacro, il noce, di chiarissima derivazione miteleuropea, il noce è una pianta molto sacra nella traduzione druidica, troviamo una fusione piena di due culti particolari, che in nessun altro luogo ebbero occasione di interagire pienamente e per lunghissimo tempo come a Benevento e nel Sannio. Da qui la decisione di rendere il luogo particolarmente demoniaco, al fine di gettare su di esso una luce sinistra, che a pensarci bene dura incredibilmente ancora oggi in virtù di pianificazione e realizzazione, esse sì, perfettamente diaboliche. Benché i Longobardi si fossero in linea puramente teorica convertiti al cristianesimo, conservarono una propria chiara identità religiosa rivolta al culto della dea Iside. Anche il serpente che adoravano era sicuramente simbolo di devozione alla famosissima divinità. Secondo una consolidata tradizione, le streghe risalirebbero proprio al periodo longobardo, ma come spieghiamo anche in un ulteriore passaggio, ciò è da considerarsi a dir poco vago. La fase longobarda è solo un passaggio del tutto, dato che nessuno nella zona considerava tali donne con l'accezione che abbiamo oggi della stregoneria. Venivano considerate sapienti, in grado di guarire e probabilmente, data la scarsa comprensione di erbe officinali e cure mediche, anche in grado di fare magie, tra virgolette, ma non destavano certo terrore nella popolazione, tutt'altro. Fu solo in seguito, e soprattutto ad opera di predicatori membri del clero, che iniziò una vera e propria campagna moralizzatrice contro le streghe, senza che ci fosse il seppur minimo riscontro reale a quanto si andava affermando. Colui che diede il via a questa isteria collettiva contro la supposta stregoneria, il cui ruolo in tutta questa vicenda non viene a mio avviso considerato per come si dovrebbe, è San Bernardino da Siena. Costui, scampato a propria volta a un processo per eresia, cosa davvero non semplice per quei tempi, divenne un accanitissimo sostenitore della lotta alle streghe e proprio di quelle presenti nella città sannita. In effetti, dobbiamo proprio a costui l'aver tracciato una sorta di fisionomia della strega perfetta, ossia un essere cattivo, totalmente in contrasto e quindi in disaccordo con il genere umano e pronto a compiere ogni sorta di nefandezze. Che Bernardino non fosse particolarmente propenso a giudicare con favore le persone di sesso femminile e anzi volto a considerarle ben inferiori all'uomo è cosa risaputa e che peraltro ben si evince dalle sue prediche. Francamente non si riesce a comprendere da quale riscontro o documentazione costui abbia potuto ricavare simili informazioni, ma certo la cosa lascia alquanto dubbiose. A che scopo lanciarsi in una così veemente campagna contro la stregoneria e ovviamente contro le donne senza avere uno straccio di prova? Perché? Ciascuno tragga le deduzioni che crede. Per quanto mi riguarda, la cosa mi lascia alquanto allibito, visto anche ciò che accadrà in seguito, con tanto di prove false, confessioni estorte con torture bestiali. Bernardino da Siena, proprio nella predica beneventana, indica all'opinione pubblica le donne che si occupano di magia, imprimendo una svolta decisiva alla vicenda. Smuove gli animi, le dipinge come nemiche del popolo, convince le autorità a far catturare tali clamorose peccatrici, dipingendole come causa di ogni male, di ogni danno alla comunità, di ogni raccolto andato a male, di ogni malattia. Vengono descritte come esseri che soggiacciono al demonio, che volano ai raduni con i demoni presso l'albero di noce di Benevento, che si trasformano in animali orribili e disgustosi, quali uccelli rapaci, rospi, anche gatti, tanto per non farsi mancare anche i poveri felini, che vennero totalmente sterminati. È l'inizio di un gioco perverso. Paradossalmente, le ben strutturate invettive, quando si dice il caso, vengono raccolte da uno scrivano che, sempre casualmente, seguiva il predicatore, ne stenografava gli infuocati discorsi e le distruttive invettive. Logica conseguenza è certamente voluta, dato che di casuale non c'è nulla, a mio avviso, la diffusione di tali discorsi in tutta l'Italia centrale prima e in quella settentrionale poi. E però dico che là dove se ne può trovare una che sia incantatrice o maliardo, incantatrice o strega, fate che tutte siano messe in esterminio per tal modo che se ne perda il seme. Parole chiarissime di Bernardino, che non hanno bisogno di alcuna interpretazione. Ripeto, su che base probatoria poteva costui scagliarsi in maniera così feroce contro donne che non facevano assolutamente nulla di male? E perché portare uno scrivano che raccogliesse le prediche? Sembra proprio che l'inizio di tutta l'operazione streghe sia cominciato in questo modo e proprio, come abbiamo sostenuto, da quelle di Benevento, inventate di sana pianta. All'odio per le donne, motivazione basilare fondata su concezioni filosofiche diametralmente opposte sia ad una visione naturale della vita che addirittura anche alla stessa visione evangelica del rapporto donna-uomo, si unirono motivazioni di ordine eminentemente politico, sociale ed economico. Si trattò di far collimare in modo perfetto varie forze apparentemente centrifughe, convogliandole verso un unico obiettivo. Qui di casuale non c'è assolutamente nulla e ne abbiamo tutte le prove che vogliamo e che servono soprattutto a dimostrare un tale assunto storico. Tornando brevemente al collante di tutta l'operazione, ossia l'odio per il genere femminile, ricordiamo che tutto ciò che richiamava al femminile divenne improvvisamente amorale, elevando oltretutto tale amoralità a vero e proprio abuso spirituale, con una specie di colpo di mano di tipo dogmatico. Qualcosa di incredibile e assurdo, ma purtroppo reale, non solo il femminile, quindi, ma ogni seppur vaga reminiscenza di druidismo femminile e culto di Iside, ancora sentiti, divennero vere e proprie eresie con conseguenze facilmente intuibili. Se consideriamo che l'ultimo tempio dedicato a Iside è stato chiuso nel VI secolo d.C., capiamo quanto questa dea sia stata venerata ben oltre il nascere del cristianesimo e ben oltre lo stesso concilio di Nicea, che ne stabilì, anzi ne sancì immediatamente la natura pagana. Se il druidismo femminile è culto per la natura, il culto di Iside è rivolto proprio alla ricerca della serenità, all'annullamento dell'odio, al rapporto paritario tra donna e uomo. Una novità sconvolgente, rendere identico il potere dei due sessi, cosa d'altronde certa anche per il druidismo, senza dimenticare gli antichissimi culti andini, riconducibili anche alle meravigliose vicende delle curandere, che di tale rapporto paritario, unico ed univoco, hanno da sempre fatto un punto nodale. Abbiamo visto che lo stesso Vangelo, sbugiardato anch'esso a Nicea, non contraddice assolutamente tale visione paritaria tra donna e uomo, e quindi il punto chiave di tutto è proprio qui. Il potere reale delle prime, che oltretutto avvolge, anzi permea, tutta la narrazione evangelica, in quanto la pari dignità che sempre il Cristo dedica loro, è più che evidente, è palese. Ecco, la grande persecuzione ultramillenaria, la grande ghettizzazione comincia da qui. Il disegno volto ad annientare le donne e la loro libertà di espressione viene sancito in questa sede inequivocabilmente. Questo è il vero e proprio odium personae che culminerà con la chiusura dell'ultimo tempio dedicato ad Iside. A Benevento, invece, tale culto, come anche il druidismo femminile di provenienza antichissima, sopravvive molto a lungo grazie ai Longobardi, devoti alla dea e certamente ben propensi anche ad integrarlo con il culto druidico della natura. A parte l'enclave beneventana, quindi, un'affermazione del maschilismo più becero e più violento, un desiderio di annullamento, anzi di annichilimento della femminilità e del femminino, un'inutile e stupida repulsione di tipo strettamente ideologico per tutto ciò che è piacere, gioia, desiderio, sesso compreso. La natura e la donna, tutte cose da dominare con violenza, quasi con cattiveria, al fine di dimostrare un desiderio di superiorità dettato da una palese e chiarissima inferiorità conclamata. La debolezza come base e contraltare di invidia e livore, di spirito di rivalsa e di riaffermazione di un potere maschile in piena crisi. Un potere che storicamente era già stato affermato con chiarezza documentale nel citato Concilio del 325 d.C. Il Concilio di Nicea. Dominare, annientandole, le donne sapienti e libere, testimoni di una gioia di vivere potenzialmente pericolosissima per chi faceva della paura un sistema di dominio assoluto e non riusciva o non voleva riuscire a comprendere, per invidia e partito preso, la grandezza del messaggio salvifico femminile. Ancora oggi, purtroppo, le vestigia di questo orrore sono ancora in grado di spargere il proprio effluvio pestilenziale. È davvero ora che lo stato di cose cambi, non se ne può più di una sostanza e di una realtà ancora lontane, nonostante proclami e belle parole di ogni genere. L'errore più grave della repressione della femminilità, a parte l'orrore della sua mostruosa realizzazione, è stato il non voler capire l'essenza del messaggio di vita e di amore che la donna stessa arreca. La mortificazione del desiderio, la demonizzazione del desiderio è concetto assurdo, antiumano e quasi stupido, in quanto comporta, a parte la pretesa ed assurdamente pervicace difesa di un mondo e di una realtà maschilista, priva di ogni senso umano, naturale e logico, la riduzione del rapporto uomo-donna a un fatto meramente meccanico, distruggendo così ogni superiore desiderio di vita. È un'autosconfessione clamorosa. Un vero e proprio autogol, un messaggio incredibilmente errato. Difendere il desiderio di vita non è un peccato. Il vero peccato è ridurre il desiderio di vita e la gioia ad esso connessa a qualcosa di peccaminoso. Questa dunque è la prima e basilare motivazione di tanto orrore. E le altre? Analizziamole cercando di restare il più possibile ancorati ai fatti che conosciamo, sia in base alla documentazione giunta fino a noi, che sulla scorta di considerazioni logiche indubitabili. L'avversione alla ginocrazia. Si intende per ginocrazia un termine, come abbiamo visto, di accezione alquanto dispregiativa, che rappresenta sostanzialmente il potere femminile, inteso sia come collante sociale che come reale prestigio all'interno della collettività. In un periodo di gravissima crisi sociale, di carestie, di guerre continue, di pestilenze, le donne cominciarono a catalizzare una sorta di nuovo ordine sociale, cosa assolutamente intollerabile sia per il potere civile che per quello ecclesiastico. Gerarchie ben determinate correvano il rischio di essere messe seriamente in discussione, palesando sempre più la conseguente necessità di ricacciare le donne in una condizione di totale sudditanza, di effettiva inesistenza sociale e soprattutto di totale sottomissione al potere maschile. Insomma, esse dovevano essere rinchiuse in un ambito totalmente domestico e nulla più. Si tenga presente che le donne in quell'epoca, e cioè dal X secolo in poi, avevano assunto ruoli importanti, soprattutto nel campo sanitario, stante una profonda conoscenza delle erbe, notevoli capacità psicologiche, mentalità contraria alla violenza, cosa straordinaria per i tempi, e prerogative molto particolari, quale ad esempio il ruolo di levatrice, considerato giustamente essenziale. Soprattutto nelle comunità rurali, il loro peso decisionale crebbe a dismisura, creando ovviamente invidie e gelosie. Si consideri che la realtà rurale, appunto, era molto diversa da quella urbana, stante una sostanziale e comprensibile difficoltà di relazione e di confronto. Logico che in un tale contesto e con simili prerogative il tessuto sociale nelle campagne fosse enormemente influenzato dalle erbarie e in genere da quelle persone in grado di alleviare la spesso estremamente triste condizione di chi viveva al di fuori della cerchia urbana. Il potere economico. Sembra strano, eppure molte donne detenevano un notevole potere economico, vedove di guerra, erbarie, pratiche di erbe ottime guaritrici, appunto. Referenti sempre più importanti per quanto attiene al settore sanitario, avevano accumulato fortune notevoli. Dato che la condanna alla stregoneria comportava l'automatica pena accessoria della confisca dei beni, si intuisce quale ulteriore mostruosa macchinazione sia stata escogitata per rimpinguare le perennemente asfittiche casse degli erari del tempo. Una vicenda che ricorda molto da vicino la reale motivazione dell'annientamento dei cavalieri templari, rei, ovviamente per modo di dire, di detenere una fortuna e quindi un potere economico enorme. Appunto. Crisi economica. I raccolti erano scarsi o scarsissimi, colpa delle streghe. Si moriva letteralmente di fame, sempre le streghe. Ovviamente venivano incolpati di stregoneria non solo le donne, ma anche quegli uomini che si fossero macchiati di un grave delitto, essere troppo accondiscendenti o troppo poco misogini. Il capitolo sulla repressione maschile è comunque da ricordare, benché i numeri non siano neanche lontanamente paragonabili a quelli femminili. Ma, dicevamo, anche per quanto attiene a morie di bestiame, prepotenze di ogni genere, soprusi da parte dei potenti del tempo, tutto veniva subdolamente e abilmente addebitato alle streghe. Vedremo in seguito come tale denominazione, streghe appunto, sia stata anch'essa creata d'arte. Davvero una strategia, questa sì, diabolica. Desiderio sessuale represso, violenza carnale. Altro aspetto di questa immane tragedia, che è sempre stato, non dico sottaciuto, ma addirittura ignorato e omesso e quindi mai tenuto nel debito conto, è la violenza carnale, lo stupro, contro queste donne. Per quanto bestiale possa apparire, queste poverette, spesso lasciate ad agonizzare in carcere in condizioni disumane, dopo giorni e giorni di torture, venivano anche stuprate e violentate senza pietà da signorotti o potenti o benestanti del luogo, isolati o addirittura in gruppi, che avevano anche la possibilità economica di dare una qualche mancia ai carcerieri, con la giustificazione che, trattandosi di esseri demoniaci, non si commetteva e non si sarebbe commesso alcun peccato. Ho potuto personalmente leggere alcuni raccapriccianti resoconti e testimonianze in tal senso, spesso in lingua tedesca, riferite da tante di queste poverette. Testimonianze che ovviamente non avevano alcun seguito, neanche a dirlo, neppure laddove riferivano di violenze brutali ed efferate. Si trattava di essere demoniaci e quindi tutto era lecito. Violenza nella violenza, dunque, perversione assoluta, desiderio sessuale represso e manifestato con rabbia, come si trattasse di una colpa e non di qualcosa di assolutamente naturale e bello, o addirittura di un vizio, di un peccato grave, motivo e fonte di perdizione. Il desiderio sessuale è peccato grave, le donne e il femminino scatenano tale desiderio, la donna è fonte di peccato. Tale sillogismo allucinante che già abbiamo menzionato va sempre tenuto presente, anche per comprendere a fondo le dinamiche di una realtà tanto perversa e apparentemente incomprensibile. I carcerieri chiudevano uno o entrambi gli occhi dietro compenso e le poverette che già languivano in carcere soffrivano una bestiale pena aggiuntiva. Spesso venivano addirittura violentate in stato di semi-incoscienza o agonizzanti. Le testimonianze che ho potuto leggere sono in tal senso assolutamente raccapriccianti. Va inoltre considerato un ulteriore aspetto non marginale di tutta questa ulteriore violenza. Chi giaceva in carcere non era stato ancora condannato per stregoneria, ma solo accusato di averla praticata. Ma era come se la sentenza fosse già stata scritta. Giustificazione per castigo divino contro panico di massa. Ma questo genocidio, tra tutte le altre, ebbe anche una motivazione molto precisa a livello ecclesiastico, differente da quanto abbiamo potuto analizzare a proposito di misoginia e avversione alla ginocrazia, costituire la giustificazione ai castighi divini scatenati contro il genere umano, in modo da prevenire e combattere ciò che da sempre ha terrorizzato il potere costituito, sia esso civile o appunto ecclesiastico, il cosiddetto panico di massa. Come ben si evince anche dalla vicenda dei presunti untori che abbiamo letto nella storia della colonna infame narrata da Manzoni, potere civile e potere ecclesiastico, supportati da un accondiscendente e per questo sommamente colpevole potere giudiziario, si alleano in un vero e proprio patto scellerato per mantenere inalterato e inattaccabile il proprio potere davanti a ogni genere di calamità o tragedia possibile e immaginabile. Il potere civile, poi, delega tutto a quello ecclesiastico, non avendo nessuna credenziale presso il popolo per quanto attiene a ciò che non si può comprendere. Ecco che il clero dell'epoca diventa a quel punto il veicolo attraverso cui salvaguardare sia il potere civile che quello appunto ecclesiastico. Un gioco perverso, certamente, ma proprio in virtù di tale motivo assolutamente non casuale, è studiato e pianificato nei minimi termini e dettagli. E allora, le streghe diventano diretta filiazione di tutto ciò che è demoniaco, inspiegabile, avverso, da combattere per aiutare a ingraziarsi la misericordia divina. Combattere le streghe per combattere il demonio e le avversità, dando così al popolo terrorizzato e impotente un nemico tremendo, quasi imbattibile, oscuro, osceno e spaventoso, ma punibile, colpibile, toccabile, bruciabile. Le streghe. Vi assicuro che non c'è nulla di esagerato in quanto sto affermando. Leggere centinaia di verbali di interrogatori, soprattutto in tedesco, in quanto conservati presso diversi archivi in Germania, e confessioni estorte sempre solo con la tortura, è stato terribile, ma molto istruttivo al fine di poter comprendere ciò che è stato. Infine, il potere delle corporazioni di medici e chierici come ultima ma non meno importante causa dello sterminio delle druide. Ulteriore motivazione fu costituita appunto dall'invidia che medici e chierici, ossia il clero, nutrirono nei confronti di tali donne, capaci di aiutare il popolo soprattutto grazie alle proprie capacità mediche, la conoscenza di erbe e cure nella tradizione delle erbarie. La medicina delle corporazioni era una sorta di sottocategoria della superstizione pura, ma non certo per le donne, depositarie di antichissime e comprovate capacità. Il tutto contribuiva ad aumentare il loro prestigio a discapito non solo dei medici, ma anche dei chierici o del clero, non più depositario di salvifici rimedi spirituali contro malattie e simili. Soprattutto nelle zone rurali si poteva assistere ad un aumento notevole del prestigio di tali curatrici, a discapito di ogni sorta e forma di ciarlataneria, senza considerare che molte categorie sanitarie, come ad esempio le levatrici, erano da sempre appannaggio femminile. Inevitabile che tali corporazioni di monaci o di pseudomedici fossero particolarmente felici di poter ricacciare le donne di conoscenza in una sorta di vera e propria incapacità sociale. A questo punto la domanda ovvia: perché Benevento assurge al luogo simbolo fatto confessare da migliaia di streghe? Semplice. Luogo simbolo dei culti della femminilità fu anche, per uno scherzo del destino e della storia, centro simbolo del potere temporale della Chiesa, in quello che diventerà ben presto un vero e proprio cortocircuito storico, politico, ecclesiastico. Come eliminare il problema alla radice, come nel resto d'Europa, facendo sì che in tutta l'Europa i culti femminili venissero definitivamente distrutti, anche distruggendoli e annullandoli proprio a Benevento. Si ha notizia di procedimenti contro la stregoneria fino al 1815 circa, in totale un periodo di quasi 1000 anni, con fasi più o meno cruente, ma comunque durato all'incirca 10 secoli, qualcosa di inconcepibile. Di solito nella storia ufficiale vengono sempre solo citati quei 300-400 anni centrali del secondo millennio, ma non è assolutamente così, è molto di più. Per quanto attiene ai processi di Benevento, la città veniva spesso nominata nei verbali, soprattutto come sede dei Sabba, le demoniache riunioni che a detta degli inquisitori si svolgevano tra demoni e streghe, e in cui avveniva ogni sorta di nefandezza o di sollazzo sessuale. Il luogo deputato a tutto ciò era lo Stretto di Barba, località lungo il corso del fiume Sabato, da cui proprio la parola Sabba. Il fatto che venissero sempre citati negli interrogatori le danze sfrenate e i girotondi demoniaci ha certamente origine dalle molte testimonianze dell'epoca, prontamente ritenute dagli inquisitori come super attendibili, riguardo a normali balli e festosi girotondi che le druide solevano effettuare nei boschi durante normali festività e ricorrenze. Spacciarle per sabba infernali fu un'altra diabolica e purtroppo geniale manipolazione dell'Inquisizione. Benevento divenne talmente famosa anche per il grande albero di noce che la tradizione reputa si trovasse appunto nel citato stretto, che alle presunte streghe veniva imposto, sappiamo come purtroppo, di riferire che esse si recavano a tali sabba demoniaci in volo, magari trasformati in volatili dal demonio in persona, dopo essersi spalmate il corpo con un unguento speciale e dopo aver pronunciato la formula di rito: unguento, unguento, portami al noce di Benevento, sopra l'acqua, et sopra il vento, et sopra ogni altro male tempo. Non si tratta di uno scherzo, assolutamente no. Le poverette erano costrette ad asseverare, ovviamente sotto tortura, tale assurdità che divenne in breve verità storica. Potete immaginare, grazie a una filastrocca semplice e di grande presa, come anche il popolo fosse convinto della veridicità del tutto, elevando così la città campana a luogo simbolo del fenomeno. Le motivazioni ci sono ormai note. Benevento godeva di fama notevole grazie alle tante donne testimoni di una cultura derivante da una concezione naturale della vita. Anche la fortissima valenza del culto di Iside, mai decaduto fin dall'epoca romana, ne faceva un luogo che i vertici ecclesiastici non potevano non pensare di dover, tra virgolette, bonificare. Il fraintendimento di alcuni studiosi della materia è consistito, a mio modesto avviso, nel voler far risalire la vicenda streghe di Benevento alla dominazione longobarda intercorsa tra il VI e il IX secolo d.C., mentre invece il tutto va ricercato in tempi molto più remoti, come abbiamo dimostrato. I Longobardi hanno solo dato via libera a ciò che già c'era, incrementando addirittura il culto di Iside, di cui erano essi stessi latori, benché provenissero dall'Europa centrale. Per quanto riguarda le druide, l'origine è ancora più antica e risale, come abbiamo detto, sia agli stanziamenti delle tribù dei Pentri nella zona, sia alla deportazione di circa 50.000 liguri di origine celtica da tale regione al Sannio, appunto. Alcune cosiddette streghe originarie della zona sono diventate talmente famose da passare alla storia. Le loro tristi, anzi drammatiche vicende, narrano di donne famose, esperte di medicina e che avevano raggiunto certamente una posizione sociale di prestigio, anche per tale motivo erano diventate oggetto di invidia e gelosia. Da qui alla condanna per stregoneria il passo fu brevissimo. Basti citare la maga Violante, la maga Menandra, la maga Alcina, a cui facendo anche Ludovico Ariosto, la maga Rosa, la maga Matteuccia, una delle prime a dover parlare per forza, e sappiamo come, di Benevento come luogo di riunione delle streghe durante il proprio processo, la maga Boiarona e Bellezza Orsini, persona di grandissima fama. Qui termina la straordinaria ricostruzione storica di Fabio Garuti nel Le streghe di Benevento, la grande bugia, pubblicato da Anguane Edizioni. Io, Devana, posso aggiungere che sicuramente la grande medica e prima ginecologa dell'intera Europa, Trotula De Ruggero, della scuola dell'Università Salernitana di Medicina dell'undicesimo secolo, non può non aver sentito la risonanza con queste sue grandissime antenate sapienti.